La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio settimana da parte mia anche oggi pomeriggio, dopo la trasmissione stamattina con Alessandro Milan alle 8.20 come tutte le mattine, ma anche il pomeriggio eccoci qua. E quindi Oscar Giannino vi saluto e vi ringrazio dallo studio di Milano. Sono le 16.30 primi 45 secondi e vi dice subito di che cosa parliamo. Traiamo spunto da un sondaggio che oggi ha segnato l'apertura del quotidiano La Repubblica. Il titolo in prima pagina di Repubblica è paura gli immigrati, gli italiani favorevoli a chiudere le frontiere. E in sintesi estrema, poi dirò qualche parola in più per presentare questo sondaggio dell'Istituto Demos, che su Repubblica viene commentato da Ilvio Diamanti, che è appunto la testa dell'Istituto di rilevazione dell'opinione degli italiani Demos. In parole semplicissime, il 48% di questo campione del sondaggio Demos fatto a settembre, pochi giorni fa, il 48% chiede di ripristinare i controlli alle frontiere, il 35% chiede di ripristinare i controlli ma solo in circostanze particolari, cioè nei giorni successivi ad attentati terroristici e così via, il 15% mantenere comunque la libera circolazione senza controllo, poi c'è un 2% non sa, non risponde. Ma come vedete nel ventaglio delle opinioni, quella su ripristinare i controlli alle frontiere è l'opinione larghissimamente prevalente e quasi maggioritaria in termini assoluti, cioè il 48%. Vi chiedo con grande sincerità, se avete voglia di darci la vostra opinione, chiamandoci all'800240024, poiché Repubblica propone il sondaggio come più controlli nell'area Schengen, cioè come se i controlli fossero alle frontiere esterne dell'Europa, ecco, io vi chiedo di dirci la vostra opinione in termini più chiari. Per voi c'è un problema di controllo alla frontiera europea, cioè in altre parole sul Mediterraneo, per quello che ci riguarda, frontiera esterna dell'Unione Europea, quindi volete un potenziamento dell'apparato nel Mediterraneo sulla questione dei profughi e migranti, oppure la vostra opinione è più secca? Volete semplicemente più controlli alle frontiere, comprese quelle tra paesi membri dell'Unione Europea, perché la cosa è un po' diversa secondo me, e io credo che con questo sondaggio ci sia un equivoco di fondo. È vero che l'accordo di Schengen, cioè la sospensione dell'accordo di Schengen, è una sospensione della libera circolazione delle persone esattamente alle frontiere intraeuropee, però a me interessa in particolare capire se voi siete per un ripristino totale dei controlli alle nostre frontiere, compresa la Svizzera, visto oltretutto che il referendum ieri in Ticino è andato come è andato contro i frontalieri italiani. Ed è un po' un paradosso se ci pensate, no? Cioè la Svizzera nel Canton Ticino, non la Svizzera, il Canton Ticino applica ai frontalieri che vengono dalla Lombardia e sono importanti per l'economia del Canton Ticino lo stesso criterio che molti vorrebbero adottare ai migranti in Italia, eh? Ognuno è migrante di qualcun altro. E allora mi interessa capire questo, chiamateci, perché la questione non è così, per così dire, non va de plano che un rafforzamento del controllo delle frontiere alle frontiere esterne dell'Unione Europea sia la stessa cosa di chi chiede no, ripristiniamo le frontiere, cioè aboliamo in realtà, o meglio, complichiamo molto la libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione Europea, perché la prima cosa chiede un rafforzamento dell'Unione Europea con strumenti cooperativi, dispositivi di sicurezza, militari, di identificazione, eccetera, eccetera, ma europei. La seconda cosa nasce da una convinzione più o meno profonda, più o meno maturata, che è l'Unione Europea oramai che non regge più. Per questo vi chiedo se ritenete di telefonarci e dirci la vostra opinione su queste due alternative. Questo sondaggio è, seppur con questo equivoco un po' di fondo secondo me, è molto interessante, perché collega esplicitamente la percentuale così elevata di chi ha risposto al campione alla diminuzione verticale negli anni, e tuttora in corso, della fiducia degli italiani verso l'Unione Europea, perché alla domanda quanto fiducia si prova nei confronti dell'Unione Europea, la risposta molta moltissima fiducia era al 57% nel 2000, era ancora al 49% nel 2010, è scesa al 37% nel 2011, è scesa ulteriormente al 29% nel 2014, adesso sta solo al 27%. tra gli italiani, solo il 27% risponde di avere molta o moltissima fiducia nell'Unione Europea. Secondo elemento di interesse di questo sondaggio è quello di verificare la correlazione tra la domanda di controllo alle frontiere e il timore verso gli immigrati. Ed è pienamente confermata questa correlazione, perché tra coloro che dichiarano nel sondaggio di avere molto o moltissimo timore verso gli immigrati, la domanda di ripristino e controllo alle frontiere ottiene un 63%, mentre coloro che hanno poco timore verso gli immigrati solo il 43%, coloro che non ne hanno per niente chiedono il ripristino solo nel 34% dei casi. E poi, ultima osservazione prima di presentarvi gli ospiti, c'è anche una distinzione per coloro che rispondono al sondaggio e dichiarano anche un'opinione politica, per verificare qual è il rapporto constituency per constituency, partito per partito, e la percentuale sia di coloro che vogliono controllare la frontiera sia di coloro che hanno pochissima fiducia, o meglio percentuale più bassa di fiducia nell'Unione Europea. E allora abbiamo che a ristabilire i controlli alle frontiere rispondono il 72% favorevole tra quelli che dichiarano di sostenere o di riconoscersi nella Lega Nord, il 65% di coloro che dicono di riconoscersi in Forza Italia, e poi via via si scende. In Fratelli d'Italia siamo al 55%, nel Movimento 5 Stelle 49%, SEL e altri di centrosinistra, più a sinistra del PD, 38%, la stessa percentuale tra coloro che dichiarano di riconoscersi nel PD, 38%, ed è questa praticamente la percentuale più bassa, il 38% rispetto al 48% di media del campione nell'elettorato del PD. Quanto poi alla fiducia, molta moltissima fiducia nell'Unione Europea, ripeto, rispetto al 27% nazionale essa sale al 46% tra gli elettori dichiarati del PD, 38% tra quelli di SEL e scelte più a sinistra del PD. Per il Movimento 5 Stelle scende al 20%, per Forza Italia al 18%, la Lega Nord al 9%. E quindi abbiamo due questioni: quella se il ripristino lo vuole la maggioranza degli italiani, o comunque la parte più rilevante degli italiani, per tutti i confini nazionali, che significa Europa addio, oppure se, o meglio, senza oppure, o se inoltre, oltre a questo, c'è anche una questione di destra contro sinistra. Allora, per parlare di entrambe queste cose abbiamo due ospiti. Il primo è Vittorio Emanuele Parsi, che insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano ed è anche editorialista per Il Sole 24 Ore. Grazie di essere con noi, professor Parsi. Grazie a voi, buonasera. E il professor Giovanni Orsina, che insegna storia contemporanea alla LUIS. Grazie anche a lei, professor Orsina. Grazie a voi e buonasera a tutti. Allora, io chiedo a entrambi, prima domanda: secondo voi è un problema di più sicurezza al confine esterno europeo? Come lo leggete questo dato? Oppure in realtà, leggendo anche il dato della diminuzione verticale negli anni di fiducia verso l'Unione Europea, nella parte, sia pur non a maggioranza assoluta, ma oramai prevalente degli italiani, voi leggete un desiderio di ripristinare il controllo alle frontiere, comprese quelle territoriali, con altri membri dell'Unione Europea, Svizzera e così via? Cominciamo dal professor Parsi. Sono due cose che credo che vadano abbastanza insieme, nel senso, da un lato credo che ci sia un calo di fiducia nell'Unione, che a mio avviso è legato soprattutto, si vanno anche a guardare i dati dell'Eurobarometro, all'impatto della crisi economica sul cittadino medio dell'Unione. Cioè, grosso modo, dal 2009 c'è un crollo in tutta Europa e anche in Italia della fiducia nell'Unione, perché l'Unione era stata venduta come quello strumento che avrebbe impedito di andare a finire nelle condizioni, diciamo così, degli Stati Uniti dopo la crisi del 2008. Verificato che non era vero, c'è stato un fenomeno di disillusione. Dal punto di vista dei confini, credo che lì la cosa sia legata alla migrazione in questo senso, cioè evidentemente una comunità politica deve avere dei confini. La polis deve avere le sue mura, che non vuol dire che deve essere una cosa chiusa verso chiunque, ma deve essere chiaro dov'è il confine della comunità. Questo problema si era posto, se vi ricordate, ai tempi dell'allargamento, quando qualcuno aveva protestato contro un allargamento troppo veloce, troppo accelerato. si ripropone oggi di fronte a un problema nuovo in cui lo spazio politico europeo è attraversato da persone che si muovono a prescindere da quelle che sono le decisioni dei membri della comunità politica chiamata Unione Europea. Allora è evidente che se l'unica alternativa al ripristino dei confini interni è la tenuta dei confini esterni, quindi piuttosto che quello che è stato fatto fino adesso, la condivisione del costo di un'incapacità, non sono capace di controllare i confini e quindi ti scarico, diciamo così, il costo che questo comporta, fatto in termini di migranti o quant'altro, da questa posizione, una posizione di condivisione di un'opportunità, insieme tutti cerchiamo di rendere questi confini effettivi. Non significa chiaramente affondare persone in mare, ma fare in modo che chiunque arrivi in Europa, tutti insieme gli europei lo verificano e assumono le misure necessarie, tutti insieme. Mi aspetto di avere un giorno non le navi italiane davanti all'Italia o quelle tedesche di fronte alla Germania, ma di avere personale che appartiene a diversi stati nazioni che congiuntamente svolgono una funzione federale a prescindere dall'assetto federale dello Stato. Professor Orsina, il professor Parsi dice che sono in realtà espressioni però di un fenomeno collegato. Poi nella seconda domanda chiedo a entrambi, perché io vedo una distinzione anche che emerge, ma lei come li interpreta questi dati? Sono lo stesso fenomeno o vede una distinzione? Ma anche secondo me, diciamo, la distinzione è reale, cioè sono due cose molto diverse, però vorrei capire quanto gli italiani in generale, gli italiani che hanno risposto al sondaggio di Repubblica in particolare, le abbiano percepite come distinte. Cioè la mia impressione è che sostanzialmente l'opinione pubblica sia un'opinione pubblica spaventata da una migrazione che non viene dagli altri paesi europei. Il problema nostro, diversamente da quello che può essere per i britannici o per gli svedesi o per i tedeschi, non è quello che da Ventimiglia entrano, semmai che da Ventimiglia non possono uscire, ma non che da Ventimiglia entrano. Quindi tecnicamente, diciamo, il problema per gli italiani non è un problema di Schengen, è un problema dei confini dell'Italia, là dove i confini dell'Italia sono anche i confini dell'Europa, cioè i confini marini. Quindi io non so esattamente quanto poi chi ha risposto al sondaggio cogliesse tutto sì, quanto infatti. Questo. La mia impressione è, diciamo, io la vedo così, cioè abbiamo un problema di migrazione che non viene dall'Europa, viene dai paesi extraeuropei, ma arriva in grandissima parte nel nostro paese. Questo fenomeno non ci va bene, ci spaventa, non ci sembra governato e a non governarlo è l'Europa. Quindi il problema non mi sembra tanto l'Europa come Schengen, mi sembra l'Europa, come diceva Parsi dava un'idea di un'Europa, che cosa dovrebbe fare l'Europa, che è esattamente il contrario di quello che sta facendo, cioè l'Europa non riesce a proteggere collettivamente i confini e quindi gli italiani dicono il problema è un problema di un'Europa che non riesce a difendere i confini. Però anche praticamente non credo che nessuno percepisca Schengen come un problema, visto che Schengen per noi non rappresenta uno strumento attraverso il quale vengono in Italia migranti extraeuropei non controllati, quindi da questo, dal nostro punto di vista, non è un gran problema. Dopodiché ci può essere un ulteriore elemento che invece porta anche a prendersela anche con Schengen, cioè quello, l'ulteriore passaggio, ma di nuovo io non so quanti facciano anche questo ulteriore passaggio, è quello di dire: visto che tanto l'Europa non ci difende, a questo punto tanto vale che ripristiniamo i confini nazionali, facciamo tutto quanto da soli, e a questo punto è anche una sorta, come dire, di rivendicazione o di, non dico di vendetta, ma insomma di ripicca, quello di dire: vabbè, allora eliminiamo Schengen anche perché non lo rispettano gli altri, cioè visto che anche gli altri non si fidano di noi e mettono i controlli alle nostre frontiere, allo stesso modo faremo noi. Quest'ultimo passaggio è naturalmente il passaggio che poi porta sostanzialmente da quel 27% di fiducia, che ovviamente equivale a un 73% di sfiducia, conduce più o meno alla fine dell'Unione Europea. Esatto. Allora, noi abbiamo come ascoltatori, anche la maggior parte degli ascoltatori, vedo gli SMS, la pensano come l'opinione convergente del professor Orsini e del professor Parsi, tranne, cioè, ci sono un certo numero di ascoltatori che ci mandano SMS dal a 349-238-6666, lo ripeto per chi volesse farlo non si ricordasse il numero, però dal Friuli abbiamo un certo numero di ascoltatori che ci dice: no, qui c'è anche un problema in realtà di mancati controlli alla frontiera interna dell'Unione Europea per le bande di rapinatori e malavita ordinaria che vengono qui da noi e nell'arco della giornata, compiuti i colpi, se ne vanno di nuovo oltre frontiera. Quindi c'è un problemina sulla frontiera orientale che ci viene detto di sicurezza e malavita. Per il resto non possono che avere ragione, in effetti. Orsini e Parsi, visto che sia alla frontiera alla Francia sia in confronto di Chiasso ci vengono rispediti indietro in realtà i migranti e non certo viceversa. Però c'è un problema: se andiamo a vedere nella distribuzione, per così dire nell'asse destra-sinistra, della correlazione opinioni espresse, fiducia verso l'Europa, richiesta di ripristino ai controlli e dichiarazione di elettorato per un partito politico, c'è un problema. Io faccio la domanda, poi ci interrompiamo un minuto e andiamo alle risposte dei nostri ospiti. Nel diagramma, cioè, se interpretiamo tradizionalmente sull'asse destra e sinistra, si vede che da Lega Nord, poi Forza Italia, poi 5 Stelle, questo dicono i risultati, e via via spostandosi verso PD e sinistra del PD, c'è una distribuzione molto netta, per cui più a destra e man mano che ci si sposta verso sinistra è più elevata, più a destra la sfiducia verso l'Europa, oramai bassissima, inesistente, Lega Nord 9%, e più alta la richiesta di controlli, cioè di romperla sulla libertà delle persone nell'Unione Europea, una delle quattro libertà fondamentali. E man mano che ci si sposta verso sinistra con un 5 Stelle attaccato alla destra, questo è quello che dicono queste risposte, per questo io pongo il problema ai nostri due ospiti, ma questo è un problema che ha a che vedere col fatto che la destra storicamente è radicata, nel senso di comunità nazionale, lo Stato nazionale, insomma lo sappiamo, ecco, quello che ha portato il nazionalismo a destra nelle grandi guerre civili del Novecento, abbiamo inflitto centinaia di milioni di vittime al mondo, oppure no, non c'entra niente, la globalizzazione in realtà lascia sfiduciati tanto a destra che a sinistra, magari a sinistra si ha un po' più di esitazione semplicemente nel volersi rinchiudere nello Stato nazionale. Questo mi interessa molto perché in realtà è un criterio di lettura di quello che può diventare nel 2017 se vince la Le Pen in Francia, vediamo cosa succede in Germania, ma come si vede anche in quello che sta succedendo adesso in Italia sul prossimo referendum eccetera, è la chiave di lettura di quello che sta spostando milioni di elettorati in Italia, ma abbiamo visto nel resto d'Europa, in tutti i paesi di Visegrad, Polonia, Ungheria, Austria, è un po' che si vede in maniera completamente diversa, ma che si vede molto anche nel paese in cui stasera ci sarà il dibattito televisivo tra Trump e Hillary. Allora mi interessa capire se vale ancora il fatto che la destra stia andando di più verso il ritorno allo Stato nazionale perché c'è una storia dietro, oppure se la storia è cambiata e non vuol dire niente questo criterio. Risposto ai nostri ospiti tra un minuto. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci tornati in diretta. Allora cominciamo le risposte di nuovo dal professor Parsi. C'è ancora l'asse destra-sinistra per capire come si dosa e si distribuisce la maggior fiducia verso l'Europa e il ripristino dei confini, oppure non vuol dire niente secondo lei? Credo che in parte ci sia, nel senso che chi si definisce o pensa di esserlo, si conosce insomma i valori che caratterizzeremo come di sinistra, ha ancora un certo afflato cosmopolita o internazionalista, che poi è qui su quale si è giocato per costruire l'Europa dei mercati e delle banche nel sì. nome dell'Europa delle persone che si spostano, perché Schengen significa mobilità del fattore lavoro all'interno del sistema capitalista, non è che significa la libertà. Sì, poi singolarmente dichiarato con sistemi del lavoro e di pensione di welfare che restavano completamente diversi, però vabbè. No, infatti qui c'è un coacervo di contraddizioni che fa spavento, no? Dall'altra parte poi c'è un effetto di pudore, sicuramente, nel senso che anche chi avesse in questo momento una crisi di identità, se sta in un certo schieramento politico, diciamo, fa più fatica quasi ad ammetterlo, no? Cioè, è chiaro che la fuga verso l'identità, la comunità è più classica della destra che non della sinistra, e poi c'è comunque l'effetto che la sinistra, il centro-sinistra, quello che sia, esprime comunque la cultura, diciamo, politica di riferimento, a prescindere dai governi, esprime la forza dei grandi giornali che vengono letti nel paese e della comunicazione politica che viene fatta dai media nazionali, quindi, ed esprime la figura del Presidente del Consiglio, che sì. In ogni caso, la sua polemica con l'Europa però è sempre una polemica nel nome, almeno nelle dichiarazioni, di più Europa, non di meno Europa, credo che questo in qualche modo funzioni come un chiodo al quale appendi il quadro. Anche se la mia opinione è che a furia di anche questa parte politica qua, in realtà poi parla sempre sì più Europa, ma un'Europa completamente diversa da quella attuale che viene radicalmente criticata. Io credo che valga sempre la vecchia legge tradizionale, a quel punto la legge tradizionale della politica è che tra chi si converte a critiche radicali all'esistente e chi da sempre le ha avanzate, poi alla fine l'elettorato si chiede ma perché non devo scegliere l'originale a quel punto, cioè Salvini che la scelta che è il suo refrain da sempre, Forza Italia non lo so, ma anche poi insomma 5 Stelle che nascono con l'idea diamo una spallata, quindi io penso un po' questo, ma magari mi sbaglio, ma chiedo al professor Orsina, siccome ha scritto diversi libri sulla destra, Berlusconi, dopo Berlusconi e così via, lei come la pensa? Conta ancora il criterio oppure, come dice Parsi, c'è molto pudore nel rispondere, ma in realtà è un po' trasversale la crisi oramai molto consumata nei sondaggi italiani dell'Europa? Innanzitutto ringrazio gli ascoltatori friulani perché mi hanno insegnato una cosa, effettivamente non avevo percepito, non conoscevo e non avevo percepito, invece insomma imparare è sempre importante. Quindi effettivamente naturalmente il nostro non è un campione statistico, lei lo sa, chi esercita la voice in una trasmissione in diretta non sappiamo statisticamente quanto conta, però mi ha colpito che sono arrivati 4 sms da parti diverse del Friuli in pochi minuti. Però questo vuol dire che c'è un'opinione pubblica che lo sente come un problema, poi sì. Appunto che sia un problema reale, percepito, fino a che punto questo naturalmente va visto, però chiaramente lì c'è un problema, è una percezione di un problema. Dunque, è evidente che, ma l'ha già detto Parsi, nel momento in cui l'Europa non funziona, per un elettore di destra che tradizionalmente è legato comunque a un'idea di sovranità molto marcata e quindi ha un sentimento cosmopolitico inferiore rispetto a un elettore di sinistra, è chiaro che il rimbalzo nazionalista viene abbastanza semplice. Quindi una persona che ha una cultura politica di destra ha una risposta molto immediata, molto semplice, la certo. Trova immediatamente. Però vorrei provare a rendere un pochino più complesso il quadro. Gli elettori del 5 Stelle sono di destra o di sinistra? Perché noi abbiamo un tasso molto basso di fiducia nell'Europa fra gli elettori del 5 Stelle. Ora, noi sappiamo che gli elettori del 5 Stelle hanno pescato sia a destra sia a sinistra, esatto. E in parti anche in con ondate diverse nel tempo, d'accordo, però se noi immaginiamo che gli elettori di sinistra, la parte di sinistra del 5 Stelle sia fortemente antieuropeista, noi possiamo immaginare che il 5 Stelle abbia in realtà recuperato l'antieuropeismo di sinistra, lasciando la sinistra europeista dentro il PD. Quindi se noi smontiamo l'elettorato 5 Stelle lungo l'asse destra-sinistra, potremmo non trovare una equidistribuzione dell'antieuropeismo, però potremmo trovare una distribuzione meno sbilanciata e vedere che in realtà è presente anche a sinistra, col problema per la sinistra che non ha un'alternativa. Mentre la destra può dire vabbè, ci riprendiamo lo Stato nazionale, soprattutto in paesi magari come la Francia, dove lo Stato nazionale è una tradizione certo. Un po' più robusta della nostra. Di buoni risultati, rispetto di buoni esattamente. Mentre a sinistra il problema è se non è l'Europa, che cosa? È un problema importante, naturalmente. Allora, io ho una sola convinzione profonda. Io non credo che smottamenti così profondi nelle convinzioni della stragrande maggioranza di voi possano risultare a lungo prive di conseguenze politiche. Questa è la mia opinione netta. Cioè, io misuro da anni attraverso questo modestissimo osservatorio, 2 trasmissioni al giorno, i vostri messaggi e sono cambiati in termini di quantità e di radicalità contro l'euro, l'Europa e così via. Io credo che alla fine queste cose troveranno la loro espressione. Io non sono molto d'accordo su cose, ma sono da sempre in minoranza. Mi tocca ringraziare Filippo, Luciano e altri che erano in fila per il tempo, ma il tempo oramai è finito. Grazie al professor Orsina, grazie al professor Parsi, appuntamento alle 8:20 domani mattina con me Alessandro Milan per Attenti a noi due.